Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salvadanaio, una trasmissione che oggi, giudicare insomma da quello, guardando a quello che sta succedendo in Liguria, davvero conduciamo con un po' di disagio e molta apprensione. Speriamo che queste ore di emergenza passino in fretta, ma già i danni sono stati pesantissimi, addirittura con delle vittime, come avete sentito, e quindi chiaramente, se sarà necessario, continueremo ad aprire delle finestre anche a Salvadanaio. E come avete sentito, i nostri colleghi anche del giornale radio hanno invitato gli ascoltatori che vogliano raccontarci le loro testimonianze da quei luoghi in queste ore appunto drammatiche. Possono farlo all'800 24 00 24, che è il nostro numero verde, ma che potete utilizzare anche naturalmente per chiamarci, per affrontare il tema che affrontiamo questa mattina, un tema sul quale siamo già andati diverse volte negli ultimi tempi, ma oggi c'è una novità, pertanto bisogna ritornarci. Allora, parliamo di evasione fiscale, non c'è bisogno di dirlo, nel senso che questo, come sapete, è una grande piaga del nostro paese. Siamo nel terreno dell'ovvietà, con i tempi di crisi che stiamo vivendo si fa sentire ancora di più pesantemente, quindi identificare chi evade, chi sfugge al fisco diventa sempre più importante, e il fisco sta cercando in questi anni di mettere a punto strumenti di identificazione, come sapete, sempre più precisi. Uno di questi è il cosiddetto redditometro, che nella sua nuova versione è stato presentato ieri dall'Agenzia delle Entrate. Il sistema, che verrà utilizzato inizialmente solo in via sperimentale, si basa sull'utilizzo di un software che elabora una stima del reddito del contribuente. Sono state individuate circa 100 voci significative, che vanno dagli immobili all'auto, ai viaggi, solo per dirne qualcuna, che si mettono in relazione con altre variabili come la composizione della famiglia, il luogo di residenza e il reddito appunto percepito. Il risultato di questo incrocio di voci dovrebbe quantificare il più fedelmente possibile l'ammontare del reddito presunto della persona, che verrà poi messo a confronto con quanto dichiarato. Due profili insomma: quello che noi dichiariamo di guadagnare e quello che il fisco suppone che invece sia il nostro reddito. Naturalmente queste due voci dovrebbero combaciare per non avere dei problemi. Dalle Entrate assicurano che il sistema sarà tarato per evitare gli errori, ma trattandosi di un metodo di indagine inevitabilmente automatico, non è impossibile che soggetti in totale buona fede finiscano per essere sottoposti a controllo, ed è lì che nasce ovviamente la perplessità e anche un po' di stizza, di rabbia da parte del contribuente, che si chiede perché debba subire, se si è sempre comportato correttamente, tutto ciò. E soprattutto quello che noi ci chiediamo è che margine di possibilità ci può essere prima appunto che scatti questo controllo. Quindi oggi a Salvadanaio cerchiamo di capire come funziona questo nuovo meccanismo, cosa ne pensano le associazioni di categoria e i professionisti, e come ci si comporta nel caso venga ravvisato questo temuto scostamento. Buongiorno alla dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buongiorno. E poi Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Dottor Carpentieri, buongiorno anche a lei, bentornato. Buongiorno. Allora, vi ho già ricordato il numero verde per intervenire, e potete anche scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Come vi dicevo, questo nuovo formato, questa nuova versione del redditometro è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa appunto a Roma. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha parlato delle novità di questo nuovo redditometro rispetto alla precedente formulazione, precisando che sarà soprattutto un punto di partenza per gli accertamenti e non uno strumento di accertamento, appunto. Sarà uno strumento invece a vantaggio del cittadino, per prevenire piuttosto che curare. Sentiamolo al microfono di Francesco Marinelli. Il nuovo redditometro comprende tutta una serie di categorie di spese che erano escluse dal precedente, e la novità più importante, secondo me, è che stiamo costruendo uno strumento che vogliamo mettere principalmente a disposizione dei cittadini, perché possano da soli determinare la coerenza fra quanto dichiarano e quanto spendono. E questo perché vogliamo che ci sia più uno strumento di compliance, di prevenzione, più che uno strumento di repressione o di controllo successivo. La logica è che noi andremo innanzitutto sugli scostamenti molto alti fra livello di spesa e reddito dichiarato. non usiamo il redditometro per fare l'accertamento, ma sarà la base dell'accertamento, quindi come analisi del rischio e quindi per l'individuazione dei soggetti poi da controllare. Poi vi spiego in che cosa significa questo termine utilizzato dal dottor Befera, compliance, in realtà non è altro che un adeguamento, il redditometro per vedere come il fisco ci vede, questa è invece la definizione del direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro. Ci si potrà rendere conto di quello che vede il fisco e quindi nel momento in cui i redditi dichiarati sono inferiori a quelli stimati, se non ci sono delle precise giustificazioni, c'è da aspettarsi un sicuro controllo. Quello che speriamo fortemente è la prima e principale finalità di questo strumento, che tutti possano misurare e rendersi conto di come il fisco li vede e magari correggere se necessario. Allora, dottoressa Acerno, chiedo in primo luogo la sua consulenza per sgombrare il campo dal primo immediato equivoco che vedo si è già generato appunto fra molti ascoltatori. Questo capitava anche nelle altre occasioni in cui abbiamo parlato appunto di redditometro, in altre puntate di spesometro. Questi strumenti sono degli strumenti di non accertamento fiscale, ma sono dei monitoraggi che appunto l'amministrazione fiscale fa per eventualmente poi arrivare ad un accertamento, quindi sono due momenti assolutamente separati. Allora sì, su questa ragione parliamo però di questo nuovo redditometro che, lo ricordiamo, si applicherà soltanto per il periodo d'imposta 2009, quindi dal 2009 in poi, fino al 2008 invece si applicherà comunque il vecchio redditometro, che a differenza di questo non ha un valore preventivo, ma di solito viene fatto sulla base di dati che il contribuente invia a seguito di un questionario. Quindi è solo questo nuovo redditometro che ha una finalità preventiva, l'ha detto bene il direttore Befera, vale a dire, cioè, solo se io non dovessi essere coerente perché dichiaro un reddito inferiore rispetto a quello che emerge da questo software nuovo, allora potrei essere accertata dall'Agenzia delle Entrate. Quindi di questo adesso si sta parlando. Quindi in sostanza lei ci ha già dato una indicazione di massima di quella che è la differenza fra la prima versione e la seconda versione. La prima versione era sostanzialmente proprio uno strumento allora di accertamento da parte dell'amministrazione fiscale che aveva dei dati relativi al contribuente che ad un certo punto chiedeva però non mi tornano un po' i conti relativamente alla tua posizione e alle tue abitudini di spesa. Adesso invece, siccome l'amministrazione fiscale tutto sommato, anche se in teoria tutti i dati dei quali poi parleremo li ha, ma siccome non gli arrivano puntualmente, allora relativamente al periodo d'imposta 2009, che è quello appunto oggetto dell'accertamento con il nuovo strumento, teoricamente invita il contribuente ad inviarli un po' più in fretta per definire un po' meglio la sua posizione, dottoressa Cerno. Forse ho fatto un po' il ragionamento. Sì, esattamente. Allora, che finora l'amministrazione finanziaria ha utilizzato un redditometro che si basa su un decreto ministeriale del 1992, quindi ormai desueto, che ha dato comunque problemi e soprattutto ha generato molto contenzioso, perché chiunque di noi, appunto anche sicuramente molti contribuenti, sapranno i problemi che ha generato questo vecchio redditometro, che veniva fatto, come dicevo, soltanto sulla base delle informazioni acquisite a seguito di questionario. Facciamo un esempio, l'Agenzia delle Entrate invia un questionario ancora adesso, per gli anni d'imposta fino al 2008, ancora accertabili quindi, invia un questionario al contribuente chiedendogli delle determinate notizie e informazioni, ad esempio hai un'autovettura, quanti cavalli fiscali ha la tua autovettura, hai una colf, hai un'assicurazione. Quindi a seguito poi di questa compilazione di questo questionario, il contribuente, se c'era questo scostamento a seguito del redditometro fatto sui vecchi coefficienti, allora veniva invitato di solito dall'Agenzia delle Entrate per dare delle spiegazioni. Quindi, a differenza di questo attuale, il vecchio redditometro non aveva una funzione sicuramente di analisi del rischio, ma su questo redditometro vecchio venivano fatti direttamente gli accertamenti, perché c'era uno scostamento tra quanto emergeva dal vecchio redditometro e quanto invece dichiarato dal contribuente. Adesso invece sembra che la finalità del nuovo redditometro sia quella di vedere soltanto laddove ovviamente c'è uno scostamento importante, elevato, che noi presumiamo superiore al 20% tra quanto dichiarato e quanto emerge da questo nuovo software, se c'è questo scostamento, allora sarò inserita in una lista di potenziali soggetti da accertare e quindi l'agenzia deciderà se magari approfondire la mia situazione e quindi chiedermi ulteriori informazioni prima di procedere all'accertamento. Quindi potrebbe anche non succedere addirittura, paradossalmente, sì, che... perché se per scostamenti ad esempio lievi o comunque medi non è detto che ci sia necessariamente l'accertamento, perché per esempio l'ufficio potrà chiedere soltanto delle ulteriori informazioni o dei chiarimenti, ma non necessariamente c'è la certezza che io venga accertata. Claudio, faccio parte quindi solo di una lista di soggetti da accertare. Claudio Carpentieri, da quello che ho letto sulle Sole 24 Ore, perché il collega Marco Mobili ha intervistato anche lei, che ha partecipato appunto ieri alla conferenza stampa dell'Agenzia delle Entrate, da quello che capisco appunto molte categorie professionali hanno accolto abbastanza favorevolmente questo nuovo strumento appunto di accertamento, perché proprio non verrà utilizzato come strumento di accertamento automatico e di massa, sono le sue stesse parole, ma un ulteriore campanello di allarme per segnalare le posizioni a rischio evasione. Quindi vi piace di più questa versione o la precedente? No, assolutamente, ma ecco, voglio precisare che sebbene modificato, il vecchio redditometro non è che è morto, rimane nel dettato normativo. Mi spiego. Questo che noi adesso chiamiamo redditometro, come dicevamo, l'abbiamo detto più volte, è uno strumento software che garantisce una soluzione all'equazione consumi più risparmi uguale reddito disponibile, no? Quindi dà una risposta un po' a questa equazione e poi non la fa a livello personale, questo è anche indicativo del fatto che non può essere utilizzato direttamente come strumento d'accertamento, ma guarda la famiglia. Alla famiglia, ecco. Cioè, quindi è un'indagine di coerenza nelle 22 milioni di famiglie italiane tra spesa e risparmi dell'anno rispetto alla somma dei redditi disponibili prodotti nell'anno dei componenti della stessa famiglia, ovviamente, che lavorano. Quindi è un'indicazione di massima di come è lo stile di vita rispetto alle entrate che entrano nella famiglia. Ieri c'è stata questa presa di posizione piuttosto curiosa, relativamente fatta da un senatore del PDL, Antonio Tomassini, che ha chiesto, che è stato tra l'altro un punto sul quale Sebastiano Barisone ieri con Focus Economia si è divertito molto, ha chiesto che i cavalli siano fatti fuori appunto dal redditometro, perché il cavallo deve essere riconosciuto come animale d'affezione, non come bene di lusso. Allora poi, anche prendendo a spunto questa folcloristica dichiarazione di questo parlamentare, andremo a vedere anche quali sono le 100 voci significative di spesa divise per macro categorie che sulle quali appunto lo strumento nuovo redditometro si basa, queste voci di spesa appunto applicate, come ci diceva Claudio Carpentieri, ad 11 tipi di famiglia. E allora ci ritorniamo su tutto questo tra poco e poi risponderemo anche alle vostre curiosità su questo nuovo strumento di accertamento preventivo, tra l'altro, che potrà anche essere monitorato in via individuale. Tra qualche settimana l'Agenzia delle Entrate darà anche la facoltà ai contribuenti di andare a monitorare direttamente la propria posizione, proprio per verificare in via preventiva se siamo a rischio scostamento. Figuriamoci se la questione dei cavalli anche oggi non scatenava il dibattito generale da parte dei nostri ascoltatori. Però adesso, se riusciamo a recuperare Nicola da Brescia, che il mio Marco sta tentando appunto di contattare in questo momento al telefono, proprio prendendo a spunto l'esempio del cavallo, facciamo con i nostri interlocutori di questa mattina l'esempio anche di come ha intenzione di funzionare il nuovo redditometro e come mai questo strumento appunto di accertamento preventivo è capace di stabilire se un contribuente è a rischio evasione. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Nel frattempo ne prendiamo anche altre per capire meglio come funziona il nuovo redditometro, che peraltro, tra l'altro, dottoressa Acerno, che è la nostra esperta in materia fiscale di questa mattina insieme a Claudio Carpentieri, non entra subito in funzionamento, no? Mi pare che il suo debutto ufficiale sarà nei prossimi mesi e poi c'è anche una fase di sperimentazione precedente. Esatto, da quello che si apprende, da novembre sul sito dell'agenzia dovrebbe essere disponibile questo software per mandare poi addirittura in forma anonima dei casi pratici e reali. E questi casi pratici saranno studiati da SOSE, che è la società che provvede all'elaborazione e all'aggiornamento degli studi di settore, quindi saranno valutati da SOSE proprio per poi mettere a punto questo software che partirà da febbraio in poi, quindi diciamo che c'è questa fase sperimentale. Inoltre poi occorre precisare che qui non siamo in grado di capire come funzionerà esattamente e se è più giusto rispetto al vecchio redditometro, perché fin quando non conosceremo questo software e quindi i risultati che darà, certo noi non potremo dare proprio un giudizio di correttezza o meno del sistema. Quindi secondo lei già il contribuente che ha così un po' il vago sentore che potrebbe essere in futuro anche a rischio accertamento perché le sue abitudini di spesa non sono esattamente coerenti con il reddito che percepisce, prima che questo redditometro, il nuovo redditometro, entri a regime, dottoressa Cerno, può già fare delle variazioni dello stile di vita e, come dire, adottare delle strategie di compliance, come la direbbe il dottor Befera? Ecco. Sì, noi già da tempo diciamo sempre che in una fase preventiva è sempre bene tener conto di ciò che si spende. Mi spiego meglio, è sempre bene conservare, diciamo, la tracciabilità delle spese che sono state effettuate e soprattutto le fonti. Quindi bisogna essere sempre pronti, ma questo già da qualche anno, non necessariamente alla luce di questo nuovo redditometro, è necessario sempre spiegare all'agenzia perché io sto spendendo 100 se dichiaro 80. Quindi l'eventuale 20 di differenza io devo essere sempre pronta a spiegarlo. Esattamente, e qui rientrano, mi scusi se la interrompo, molte considerazioni che ci stanno facendo gli ascoltatori, ma insomma, ma se abbiamo del risparmio, se addirittura, adesso sentiremo Andrea da Pescara, le nostre entrate, anzi Andrea gliela faccio fare subito questa domanda, se le nostre entrate hanno una natura particolare che magari per essere dimostrate è un po' complicato, Andrea ci dica un po', che così magari le faccio dare qualche indicazione dai nostri esperti stamattina. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Nel caso di entrate tipo calcio scommesse, io sono molto bravo e ho la mia piccola entrata settimanale, cosa faccio? Metto da parte le ricevute per dimostrare poi che... Mi sembra che la soluzione sia ad una banalità disarmante, Claudio Carpentieri. No, la risposta è assolutamente sì, in quel caso... bisogna mantenere i cedolini delle vincite per dimostrare che, se ovviamente consistenti, possono giustificare la lontananza tra reddito dichiarato e spese effettuate. Mi lascia dire una cosa? Sì, certo, come no. Allora, se io attraverso questo nuovo redditometro dovessi essere obbligato a mantenere e conservare tutti gli scontrini delle spese effettuate, dico che questo strumento non è quello che io ho visto l'altra ieri, ok? Perché questo strumento, proprio per come ci è stato presentato, deve essere uno strumento di segnalazione, di campanello d'allarme rispetto a quelle che sono le 100 voci che io vado ad indicare nel software, ma a livello, come dire, di massima. Non è che devo andare a creare una contabilità della famiglia, perché significa creare 22 milioni di contabilità. Diciamo che non è obbligatorio ai fini del redditometro, poi se uno nell'ambito della sua organizzazione familiare, per tenere conto di tutte le spese, sa che magari ogni tanto il fisco si alza. È agevolato nella compilazione, però quello che secondo me vorrei segnalare, non emerge la necessità per tutte le 22 milioni di famiglie di compilare l'allegato, come dire, questo software, perché chi ha la possibilità e la volontà di applicarlo lo applica per vedere come è posizionato, perché magari sa che ha qualche scheletro nell'armadio oppure ha una condizione limite, però non deve diventare un obbligo di massa, perché l'obbligo di massa significa, perché io l'ho visto lo strumento, è semplice, ma ci vorranno dalle 100 alle 200 euro dal professionista per compilarlo, perché non è che c'è la possibilità di compilarlo direttamente, perché io ho visto poche videate ieri, però le devo dire che un pensionato o un lavoratore dipendente che è completamente digiuno del diritto tributario o di qualsiasi compilazione di form di analisi ha bisogno d'aiuto. Certo. Non lo può fare da solo. Allora, per tornare alla questione che ci premeva, no, dottor Campertieri, però l'intervento che lei ha fatto prima relativamente alla, come dire, organizzazione ossessiva della distribuzione delle spese fatte della famiglia, eccetera, per poter avere un quadro quadro della situazione pregressa rispetto appunto alle proprie spese, in modo tale che uno abbia pronta la documentazione che possa giustificare spese fatte se il fisco ce lo chiede. No, quello che mi premeva dire è che è chiaro che mi sembra ovvio adottare un atteggiamento di buonsenso, nel senso che una famiglia che non ha variazioni di abitudini eclatanti da un anno ad un altro, credo che possa sentirsi tranquilla. Se però una famiglia che ha un reddito stabile per un tot di anni ad un certo punto, e magari può essere proprio questo l'anno fiscale appunto 2009, fa una spesa assolutamente non coerente con gli stili di vita degli anni precedenti, e questo perché magari è arrivato lo zio d'America che ha rilasciato un'eredità e a fronte di questa eredità si fa la spesa, che ne so, dell'auto da 50.000 euro, sono questi i casi in cui bisogna mantenere la documentazione. Non so se sono stata chiara, Carpentieri, oppure fuori luogo. No, è stata chiarissima, ma direi in questa occasione la documentazione da conservare non è tanto la spesa, ma è piuttosto lo zio d'America. Certo. Devi dimostrare che hai potuto sostenere quella spesa perché avevi ricevuto un'entrata straordinaria. Perché la spesa nel 90% dei casi ce l'hanno loro anche tramite le banche dati che arrivano con spesometro, con la banca dati delle operazioni con gli istituti di credito che esiste, con l'obbligo di trasmissione delle agenzie di viaggio dei dati, l'obbligo di trasmissione degli agenti di compravendita di immobili, cioè esiste già nell'anagrafe tributaria o degli istituti tipo degli enti pubblici tipo il PRA, hanno già tutte le informazioni. Questo serve al contribuente per rendersi conto di come è posizionato in termini di famiglia e della possibilità di subire un accertamento. Guardate bene, un accertamento che può essere anche fatto con l'invio di questionari e quindi un redditometro, o meglio spesometro vecchio stampo, fatto ad personam, perché questo seleziona. Poi, una volta che sono stato selezionato perché sono a rischio di evasione alto o medio, a quel punto l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzerà gli strumenti adeguati al caso specifico. È un imprenditore, utilizzerò gli studi di settore piuttosto che metodologie di controllo. È una persona fisica non imprenditore, utilizzo lo spesometro chiedendogli con questionario dettagliatamente le spese che lui ha fatto in quell'anno o i risparmi. Esatto. Quindi, e poi di fronte tra l'altro a questo accertamento, che peraltro adesso è obbligatorio, se non ho capito male, perché è, come dire, una tutela nei confronti del contribuente, Carpentieri, si può anche, come dire, finire lì la questione, può anche terminare lì la questione, non è detto che poi parta l'accertamento ai fini del, non lo so, della dimostrazione dell'evasione fiscale. Certo, ma poi voglio dire, questo è lo strumento che poi ci piace di più, perché proprio per questa sua peculiarità, che parte dalla spesa e dal risparmio che evidenzia il contribuente con banche dati, che ha già a disposizione l'amministrazione finanziaria, colpisce anche l'evasore totale. Questo non ce lo dimentichiamo, che è la cosa principale che a noi in particolare dà fastidio, perché fa una assoluta concorrenza sleale a chi invece al fisco è noto. Quindi, ecco perché poi noi siamo molto a favore di questo strumento con questo utilizzo, perché dà la possibilità di scovare quelli che sono gli evasori totali, e purtroppo sono tanti in Italia, che fanno concorrenza sleale a chi invece al fisco è noto. Senta un po', Carpentieri, lei la questione del cavallo l'ha seguita ieri? Sì. Allora, sentiamo un po' Nicola da Brescia, quali perplessità, così magari poi specifichiamo anche i termini della questione. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Mi piace praticare l'equitazione, sì. Allora, le perplessità sostanzialmente sono di questo genere. Io ho i cavalli a casa mia, nel senso che vivendo in Cascina, in campagna, certo, ho la possibilità di tenere due cavalli che normalmente utilizzo per passeggiate, quindi in realtà sono cavalli di affezione. È nata in quello che è l'ambiente dei cavalli questa problematica legata al fatto che l'Agenzia delle Entrate in Piemonte prima, ma lo sto facendo anche in Lombardia, quindi dalle nostre parti, delle verifiche con multe salatissime per chi è proprietario di cavalli, senza distinzione tra quello che è il cavallo da reddito, quindi da concorso, da gara. Certo, quindi diciamo lei non lo, teoricamente non lo affitta per fargli fare delle gare, ma se lo tiene in cascina. No. Però il problema è che mantenerlo costa, e quindi magari credo che il fisco voglia dare ad indagare solamente su chi, magari, che ne so, se io sono una giornalista di Radio 24. Sta proprio qui l'errore, nel senso che un cavallo tenuto a casa e quindi con alimentazione che viene fatta in casa, fieno e così via, viene a costare meno di un cane. Ed è quello il problema che nasce per dalla pittoresca cavalli, dichiarazione anche del senatore Tomassini. Voleva fare evidente. È questo il problema più grosso, che dall'Agenzia delle Entrate, per quelle interventi che ha fatto a chi ha cavalli, ecco, nasce quindi... da qui tutti i nostri dubbi, nel senso, a questo punto cosa, nessuno di noi tiene più un cavallo, perché la dichiarazione, perché uno ha un cavallo a casa che gli costa forse 600-700 euro l'anno, secondo il fisco gli deve valere almeno 20 e non ricordo chi, 1000 euro. Ah, però Nico, va bene, d'accordo, senta, poi sento che cosa ne pensano la dottoressa Cerna e Claudio Carpentieri di tutto questo, ma pensi un po' dove siamo andati a finire stamattina. Però evidentemente, adesso a parte il cavallo, ma magari molti altri casi simili relativamente ad altri voci di spesa possono emergere con le stesse, appunto, come dire, situazioni paradossali. Prima di andare a commentare cavalli e dintorni, sentirei anche la domanda di Gianni da Roma, perché altrimenti oggi veramente abbiamo dato spazio a pochissimi ascoltatori, ce ne dispiace. Gianni, buongiorno. Buongiorno signora, riguardo ai cavalli, sono certo che l'Agenzia delle Entrate è molto preparata e sa distinguere il cavallo che vive in una prateria da un cavallo dove sta in città. È ironico, Gianni, cavalli... oppure lo pensa davvero? No, volevo sapere se era ironico o meno. No, sono serio, perché a Roma avere un cavallo a casa è impossibile, devi spendere 300-400 euro al mese per gestirlo. E invece l'ascoltatore precedente diceva che quelli da cascina, con il fatto che il fieno che viene utilizzato per alimentarli viene prodotto in cascina, insomma, fa abbattere notevolmente i costi per il mantenimento di questi animali. Detto questo, magari la verità sta nel mezzo, l'Agenzia delle Entrate presume un costo, chiaramente se l'agricoltore, se il titolare della cascina è in grado di dimostrare altro, o riuscire a farlo senza alcun problema. Però lei non voleva chiederci questo, Gianni. Ripeto, l'Agenzia delle Entrate sono sicuro che è preparata, e anche il dottor Befer è preparato, e quando fa lo spesometro, ha detto correttamente bene quel signore, il discorso è che devi conservare le entrate, non le uscite. Le uscite vengono intercettate automaticamente dall'Agenzia delle Entrate. È l'entrata che va conservata. Certo. Rispetto all'entrata, l'Agenzia delle Entrate, che è intelligente, sicuramente lo usa per lo spesato mensile del consumo mensile e non dell'una tantum annuale. Mi vado a spiegare: se io guadagno 2000 euro al mese, ovviamente se ogni mese spendo per il cavallo 500 euro, la macchina, la BMW 300, questo e quell'altro, è una spesa mensile media di 5000 euro, sono un soggetto da accertare. Certo. Se io invece ho una spesa media mensile che coincide con le mie entrate di 2000 euro, il problema non dovrebbe esistere, neppure se io una volta compro un'auto nuova con i miei risparmi. Certo. Perché essendo intelligente l'Agenzia delle Entrate capisce che ho dato fondo ai miei risparmi. È intelligente l'Agenzia delle Entrate? Allora, dottoressa Cerno, siccome sono quasi sicura che tutto il ragionamento fatto da Gianni, appunto, sia, come dire, anche in qualche maniera ironico, le chiedo un commento, se vuole farlo anche sul cavallo, volevo, naturalmente è liberissima. Sì, le leggo anche però questo messaggio di Francesco, perché naturalmente, prendendo a spunto la questione del cavallo, dice: allora, dato tutto quello detto, tutto quello che avete detto, posso far passare il mio yacht da 30 metri come strumento di pesca per la sopravvivenza? Allora, ovviamente no. Volevo solo dire questo, che finora l'Agenzia delle Entrate sta facendo degli accertamenti sui cavalli, ma come su altri beni, sulla base del vecchio redditometro che, ho detto, si applicherà fino all'anno d'imposta 2008. Vecchio redditometro che si basa semplicemente sulla moltiplicazione di questi beni per un determinato coefficiente. Ed è anche giusto dire, quindi, che per quanto riguarda il cavallo non si fa differenza se il cavallo è a casa, in cascina, piuttosto che un cavallo da corsa, perché c'è un moltiplicatore che viene fissato dal decreto ministeriale. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo con questo risultato, che riguarda il cosiddetto costo di gestione, cioè l'agenzia, applicando quel coefficiente, determina quello che è il costo per mantenere quel cavallo in un anno. Le dirò anche di più, che se proviamo, almeno abbiamo provato a difenderci dimostrando che il cavallo è costato di meno, la Cassazione dice che questa nostra difesa non è valida perché ci sono questi coefficienti che sono stabiliti per legge, che hanno un valore di presunzione relativa. Quindi il contribuente che cosa può fare eventualmente fino al 2008? Può dimostrare soltanto che il cavallo, invece che un cavallo da corsa, è un cavallo magari un anziano, che non ha bisogno, esatto, di queste cure, e allora in questo caso è possibile questa difesa, e così per tutti i beni. Quindi questa è la prima precisazione da fare. Un'altra precisazione da fare è questa, che forse io non mi sono spiegata bene prima. Questo nuovo redditometro ha lo scopo sicuramente di ricercare i soggetti da accertare, quindi di creare una sorta di lista di soggetti da accertare, ma accertare poi come? Sulla base delle spese effettivamente fatte, perché quello è il tipo di accertamento più giusto, è sempre un accertamento di tipo sintetico, ma che prescinde dall'applicazione di moltiplicatori o di coefficienti. Quindi è un accertamento dove il contribuente si dovrà giustificare solo per le spese che ha fatto. Quindi a fronte di spese per un importo pari a 100, il contribuente dovrà giustificare 100 come entrate. È questo il principio che si vorrà seguire. E se uno mantiene la documentazione, certo, esatto, se uno mantiene appunto la documentazione corretta di tutte quelle che sono le sue entrate, evidentemente non siamo a rischio di accertamento per poter essere poi tacciati da evasori fiscali anche per piccoli importi. Ci manca veramente un minuto di tempo, quindi per concludere con un esempio, così facciamo capire a tutti gli ascoltatori di che diavoleria stiamo parlando questa mattina. Claudio Carpentieri, chiedo un aiuto a lei. Io mi sono presa i gruppi omogenei che l'Agenzia delle Entrate ha individuato. Io sono una persona sola di età compresa fra i 35 e i 64 anni, perché ne ho 42. Vivo nel nord-ovest. Mi sente, Carpentieri? Poi tra l'altro devo anche chiudere. Quindi faccio la giornalista, mettiamo di avere un'entrata minima lorda annuale di 40.000 euro, sono un po' di più, tanto per essere chiari. In che modo l'Agenzia delle Entrate appunto potrebbe chiedermi ragioni del mio comportamento di spesa? Semplicemente aprendo il software, indicando alcuni dati riferiti all'abitazione, ai mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, attività sportiva e ricreativa a cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari. Cioè, se, noi gli, cioè se io vado in palestra praticamente, ma questo dato ce l'ha già, sa che pago una cifra mensile di palestra, cioè può diventare addirittura una voce di spesa non congrua con il mio... Sì. Perché? Sì. Perché praticamente, ripeto, il software, per renderlo comprensibile a tutti, fa un'equazione: spesa dell'anno sostenuta nell'anno più risparmi dell'anno per investimenti immobiliari ed immobiliari uguale reddito. Non puoi aver speso o fatto investimenti per più del reddito che hai ricevuto. Certo, quindi se dovrei aver speso per la palestra 30.000 euro. Sì, se lei totale spese che ha sostenuto nell'anno più ha comprato qualche titolo piuttosto che un box, no? E va sopra. Devo chiudere, Carpentieri. Se va sopra, insomma, praticamente l'amministrazione fiscale bussa alla mia porta. Ci ritorneremo al più presto. Grazie a Claudio Carpentieri e Rosanna Cerno per essere stati con noi. Torniamo domani con voce Valeria De Rosa. Io torno venerdì. Buona giornata.